Europa 24. Buongiorno dalla redazione e da Adriana Fracchia. C'era grande attesa oggi al Parlamento europeo per la relazione sul rapporto annuale del Comitato di Supervisione dell'Olaf. L'Italia è il secondo più grande fan dell'Olaf dietro la Germania, lo ha detto il direttore del Comitato di Vigilanza dell'Ufficio Europeo per la lotta antifrode, l'italiano Giovanni Kessler, facendo riferimento al numero di segnalazioni di possibili frodi all'Ufficio Europeo che le combatte. Nel 2012 quelle italiane sono state infatti un totale di 58. La Germania, con 76 segnalazioni, è il paese che più si è rivolto all'Olaf, terza la Bulgaria. Al di là dei numeri, ha detto Kessler, è un esempio per l'ottima collaborazione, in particolare con la Guardia di Finanza, ma anche con l'Agenzia delle Dogane e le Procure. In totale, lo scorso anno, Olaf ha ricevuto 1.264 segnalazioni, ha aperto 718 casi, ne ha chiusi 465. Nessuna minaccia quindi alla credibilità dell'Olaf dal Dalligate, che ha portato alle dimissioni dell'allora commissario alla salute John Dalli per presunte accuse, poi rivelatesi false, di essere al soldo delle multinazionali del tabacco. In queste dimissioni aveva giocato un ruolo chiave un'indagine condotta proprio dall'Ufficio Antifrode Europeo. L'11 luglio il presidente dei Popolari Europei ha chiesto le dimissioni di Kessler. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si chiude oggi la 3 giorni della missione dell'UE in Russia, che è partita domenica. Lo scopo è creare nuove opportunità di business e sbocchi commerciali per le imprese europee. Le associazioni di categorie europee e nazionali rappresentano il 20% della delegazione. A guidarla il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani. Lo ha sentito Anna Marino. È quello di incrementare la presenza di imprese europee nella Federazione Russa e poi di invitare i russi a investire all'interno dell'Unione Europea. Abbiamo firmato anche un accordo per quanto riguarda il turismo, perché il nostro obiettivo è quello di incrementare la presenza di turisti russi in Europa, e per questo stiamo lavorando a regole più flessibili per la concessione di visti turistici, perché si tratta di un settore sul quale noi puntiamo molto e che è molto ambito dai russi. Quali altre azioni per le imprese italiane? Le imprese italiane, che sono parte importante della delegazione, la prima volta che arriva a Mosca una delegazione della imprenditoria europea, quindi un valore aggiunto. Quindi gli italiani sono molto popolari, naturalmente sono ostacoli da superare per quanto riguarda alcuni temi come standard comuni e come alcune barriere. Quindi il lavoro è soprattutto sull'uniformità delle regole in modo da aumentare l'export? Ah, certo, per questo, ma anche per aiutare la produzione, perché se le nostre imprese devono venire a produrre qui, se hanno standard comuni a quelli italiani, è più facile anche per i macchinari che hanno per la produzione. Poi c'è grande interesse per il nostro settore della moda, per le industrie turistiche europee, quindi io credo che le prospettive siano positive. Il mercato dell'auto in Europa continua ad essere debole. A maggio ha chiuso in calo del 5,9% a 1.083.430 vetture contro 1.151.531 vetture del 2012. Si tratta, precisa la CEA che diffonde i dati, del maggio più basso dal 1993. E l'Italia cede il titolo di Cenerentola tra i 5 principali mercati a Francia e Germania, entrambi con flessioni nelle vendite superiori almeno 8% segnato dal nostro paese. Si è inaugurata oggi a Bruxelles l'ottava edizione di Libero Cinema in Libera Terra, che porta il cinema nelle terre dei beni confiscati alle mafie e restituiti alla legalità. Il festival, che ha avuto per il secondo anno il patrocinio del Parlamento europeo, è stato inaugurato con l'intervallo di Leonardo Di Costanzo. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo l'evento di lancio del progetto Euronet Plus 2013, il network di 13 radio pubbliche e private di tutta Europa, di cui fa parte anche Radio 24, che raggiunge 20 milioni di ascoltatori con notizie di attualità, politica, cronaca, costume in 13 lingue. Domani, mercoledì 19, a partire dalle 17:30, nella sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, si terrà la presentazione del progetto, accompagnata da alcuni dibattiti in cui si parlerà di cittadinanza attiva e di come comunicare ed ascoltare notizie ed opinioni in Europa. Ad intervenire saranno, oltre a giornalisti e a cittadini, anche alcune grandi personalità europee, come il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e la vicepresidente Isabelle Durand. Per saperne di più sull'evento e sul network Euronet Plus, il sito è www.euronetplus.eu. È tutto per questa edizione di GR Europa. Un saluto da Adriana Fracchi, a prossimo appuntamento alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.